Radio 24 Reportage. Dal sud al nord Italia, dal Golfo di Taranto alla pianura padana, risalendo le correnti del fiume Po, di Federica Frola. Virgilio lo chiamò il re dei fiumi, Eridano. Nel 1830 le sue acque sommersero il Ferrarese. Nel 1600 la piena fu così violenta da far scomparire Modena per diversi anni e nel 1951 il Po cacciò di casa 180.000 persone. Nel delta gli argini premuti scricchiolano, il Po si scatena e le campane suonano a martello per annunciare che il nemico ha rotto o sta per rompere. Poi si scoppiarono gli argini e ci trovammo tutti sotto l'acqua. Occhiobello, Polesella, Cavarzere, Adria, con Rovigo a nord e Ariano a sud. Sono 150.000 ettari di terreno allagato, di case liquefatte, di raccolti perduti. Sono decine di migliaia di persone in fuga e centinaia di morti, di scomparsi, di feriti, di malati da trasportare d'urgenza. And it's hard, it's hard, it's hard, it's hard, it's hard rain, they're gonna fall. Il Po come l'Etna, un gigante, naturale, potente, potenzialmente distruttivo ma per certi versi anche affidabile e costante nel suo alternare i periodi di piena e quelli di secca. Lo dimostra una ricerca che si basa sull'analisi di sedimenti trovati a chilometri di distanza dal suo bacino. Siamo andati a leggere queste informazioni in microorganismi nel Golfo di Taranto, nel Mar Ionio. La professoressa Carla Taricco, climatologa torinese, ha riunito dall'Università di Torino, dalla Ca' Foscari di Venezia e dall'Istituto Nazionale di Oceanografia di Trieste realtà scientifiche diverse che, collaborando insieme, hanno condotto una ricerca molto particolare. Un'oscillazione decennale che non sapevamo spiegare ci ha portato all'interazione con oceanografi per cercare appunto la causa nell'ambiente in cui questi microrganismi erano vissuti. Poi insomma siamo arrivati alle acque dolci del Po che arrivavano nell'Adriatico, che potevano essere la causa di variazioni dell'habitat di questi animaletti, diciamo. Tutto il nostro sforzo sperimentale è stato quello di colmare un po' la lacuna, le lacune sul passato, ma ci sono tante altre variabili che si possono ricavare dai sedimenti che stiamo studiando, che riguardano per esempio la temperatura. E perché proprio il Golfo di Taranto? È una zona molto favorevole agli studi sui cambiamenti climatici. L'eccezionalità dei suoi sedimenti è data dal fatto che sono accuratamente databili grazie alla presenza di tracce delle eruzioni vulcaniche del Vesuvio che si sono estese fino alle acque del Golfo di Taranto. La ricerca dimostra che i foraminiferi, i microorganismi marini depositati nei sedimenti, serbano nei loro gusci tracce delle variazioni di portata del Po, rilevando periodi di siccità e di alluvioni negli ultimi 2000 anni. In particolare hanno mostrato che il lungo periodo freddo dal 1600 al 1800, noto come piccola età glaciale, mostrò la maggiore variabilità idrologica degli ultimi due millenni. Sara Rubinetti, ricercatrice dell'Università di Torino. Questo andamento decennale è fortemente costante nel passato, di alternanza di periodi con maggiore portata e minore portata, che comunque non è ai livelli che invece si sono registrati nel passato, soprattutto intendo intorno al 1600, dove allora questa alternanza proprio di periodi di piene e di secche era ancora più forte. Quando noi pensiamo alle misure climatiche nel passato, non ci sono più gli strumenti di misura, i termometri piuttosto che altro, e quindi dobbiamo affidarci a serie anche un po', come dire, chiamiamole alternative, quindi ad esempio la portata del Po. Lo raccontano proprio le cronache dell'epoca. Un anno dopo l'altro la pianura padana era inondata dalle acque del grande bacino. Nel 1872 il letterato Tullio Massarani indirizzò una lettera al principe Eugenio di Savoia in cui chiedeva si erogasse il patrimonio del Consorzio Nazionale nella fondazione di un grande istituto di soccorso e credito agrario a pro delle popolazioni alluvionate. Della grande inondazione ne parlò anche la rivista La Civiltà Cattolica, che il 2 dicembre 1882 pubblicò un articolo in cui descriveva gli ingenti danni per le province venete di Padova, Verona, Vicenza, Rovigo e tante altre. Nel corso dei secoli sono stati tanti gli interventi umani sul grande fiume, per l'industria, per i raccolti e per proteggere i paesi limitrofi. Il Po, per la sua posizione geografica, la lunghezza di 652 km, il bacino più esteso e la massima portata alla foce, ha da sempre una grande rilevanza sociale ed economica. Negli interventi eseguiti sul corso principale e sugli affluenti, quindi, l'obiettivo era quello che la portata del fiume non variasse in maniera rilevante. Già nel 1806 era stato istituito un magistrato civile per i lavori sul sistema Po e la catastrofica alluvione del 1951 determinò l'istituzione del magistrato del Po, una struttura che gestiva le opere di difesa dell'intero bacino. Oggi coordina queste attività in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto l'AIPO, l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po. L'ingegnere Giuseppe Zanichelli. Io mi occupo del sistema di monitoraggio e di previsione delle piene sul bacino del Po. Le due piene più significative che si ricordano sono quelle del 94 e del 2000. C'è stata poi quella dell'anno scorso, abbastanza elevata, ma non elevatissima. La differenza si nota invece sui bacini più piccoli. Abbiamo avuto negli ultimi due anni delle differenze di comportamento di questi bacini in relazione a eventi soprattutto temporalestichi molto intensi. Comunque crea dei danni, anche le arginature, per dire, del Nure, che erano state calcolate secondo la pianificazione di bacino pochi anni fa, sono arrivate al limite della tracimazione, quindi... Notiamo questo spostamento verso un'estremizzazione dei fenomeni. Ci sono magari meno piogge, cumulativamente sull'anno possono esserci anche meno piogge, però spesso si concentrano in periodi molto più brevi, quindi danno delle conseguenze molto più gravi sul deflusso dei corsi d'acqua. Sono quelli che oggi chiamiamo flash flood, alluvioni lampo, fenomeni improvvisi tipici dell'ultimo secolo, fortemente condizionato dalla presenza umana. Il clima segua un andamento ciclico, i fenomeni di piena degli affluenti del Po, che un tempo si verificavano ogni 100 anni, oggi si verificano ogni 20. Questo dipende dall'intensificarsi degli eventi atmosferici dovuto all'aumento dell'energia nell'atmosfera, come spiega Carlo Cacciamani dell'ARPA. Aumentano per esempio le condizioni di disagio estivo perché fa molto caldo e umido, eccetera. Cosa che stiamo verificando negli ultimi 5, 6, 10 anni, come è stata Genova nel 2013, come è stata Parma nell'alluvione del 2014, come è stata Piacenza nell'alluvione del mese fa, come sono state la Versilia nel 2013, come è stato Rossano Calabro quest'estate. Sono tutti fenomeni legati al fatto che c'è un'attività in atmosfera molto più intensa, una instabilità molto maggiore legata al riscaldamento della terra e dei mari. Il clima è variabilità, però la variabilità è sia naturale che determinata da effetti antropici. Adesso gli effetti antropici nel giro degli ultimi 150-200 anni sono aumentati molto, perché chiaramente c'è un impatto umano sull'atmosfera che ne ha determinato delle modifiche, delle caratteristiche fisiche e chimiche. Sicuramente nel 600 ci saranno stati quei fenomeni, ma sono legati a una situazione che non era in nessuna maniera determinata dalla presenza dell'uomo. L'uomo aveva finalmente imparato a conoscere e in parte domare il grande fiume del Nord Italia. Più si va avanti negli anni, però, più è probabile che il Po subisca gli effetti del cambiamento climatico globale, cosa che sconvolgerebbe il ciclo di variazione idrologica costante da millenni. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.